Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Oggi decide l'Europa, oggi si decide l'Europa. Israele, bandiere nere ancora al vento, Nagorno-Karabakh, la ferita aperta nel Caucaso. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. In un quadro europeo di solidarietà comune non stiamo chiedendo fondi per poterli poi utilizzare in modo arbitrario. Armenia and Azerbaijan have been in dispute over the Nagorno-Karabakh region for decades. In Israel, there have been protests in Tel Aviv and West Jerusalem against the government's handling of the coronavirus pandemic. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, un ottimo inizio di settimana da parte mia e da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Antonio Tali, Laria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti sui tanti temi che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Innanzitutto il Consiglio Europeo, non tanto per raccontarvi gli aspetti meramente economici, pur importantissimi, ma per cercare di capire cosa accadrà domani. Sicuramente ci sveglieremo, se il vertice arriverà a delle conclusioni, in un'Europa che non sarà più la stessa. Vinceranno le anime più sovraniste, quelle più frugali, oppure lo spirito comunitario tornerà a farsi vivo e forse nei prossimi anni troveremo una nuova Unione Europea. Poi in Israele, perché continuano a sventolare sia a Gerusalemme che a Tel Aviv le bandiere nere, questo movimento anti-Netanyahu che sta però catalizzando buona parte dell'opposizione. Adesso si protesta non soltanto contro Netanyahu, ma anche con, a loro dire, gestione disastrosa del Covid-19 e crisi economica che sta imbarazzando il governo israeliano. E poi ancora Nagorno-Karabakh, tra Azerbaijan e Armenia, una ferita ancora aperta. Lì nel cuore del Caucaso, guerra identitaria o ci sono anche interessi economici? Tutto questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. 349-238-6666 per voi. Intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo, particolarmente sensibile e delicato, ci porta in Colombia. Chiediamo giustizia e verità perché il caso è oscuro e da subito non c'è stata chiarezza. Abbiamo paura che si palesi un nuovo caso Regeni, che si disperdano le energie per appurare la verità sulle circostanze più che sospette che hanno portato alla morte di Mario. Così l'appello degli amici di Mario Paciolla, 33 anni, originario di Napoli. Il suo corpo era stato trovato mercoledì 15 luglio nel suo appartamento San Vicente del Caguán, nel dipartimento meridionale colombiano di Caquetá, dove Paciolla operava come osservatore ONU. Secondo le autorità colombiane, il giovane si sarebbe suicidato impiccandosi, ma la famiglia del ragazzo e i suoi amici e chi lo conosceva hanno respinto immediatamente questa tesi. Il ragazzo aveva già un volo, anzi dovrebbe entrare quest'oggi per l'Italia, un volo già prenotato, e lo stesso ragazzo si era confidato in un'ultima telefonata con i genitori esprimendo preoccupazione e dicendosi che si era trovato in una situazione particolarmente delicata e sensibile. Laureato in scienze politiche, diverse esperienze come cooperante, era stato anche volontario delle Peace Brigades International in Colombia tra il 2016 e il 2018. Fino alla sua morte lavorava invece alla missione ONU per il reinserimento degli ex guerriglieri delle FARC proprio invece nella società civile colombiana. Il distretto in cui operava era un distretto particolarmente sensibile, particolarmente ad alto rischio. Questo lo dicevano sia le autorità colombiane che gli analisti italiani. Adesso si attende l'autopsia e il servizio di cooperazione internazionale di polizia dovrebbe recarsi in Colombia per cercare di fare luce su questo mistero. Per quel che ci è dato e per il tempo che avremo da qui a venerdì, quando si chiuderanno i battenti qui a Nessun Luogo Lontano, cercheremo di anche noi contribuire nel nostro piccolo a fare luce e a fare in modo che non si dimentichi questo caso, che non diventi un Regeni 2. E adesso riaccendiamo i riflettori sulla Nigeria, non nel nord-est, Maiduguri, quello stato che per anni è stato oggetto delle scorribande, lo è tuttora, di Boko Haram, formazione islamista, lo sapete che ormai da decenni sta funestando il nord-est, appunto, dell'importante paese africano, ma a nord-ovest, dove ormai gli attacchi dei banditi si fanno sempre più frequenti. Sabato 23 soldati nigeriani sono stati uccisi in una imboscata che è avvenuta a Katsina, siamo nel nord-ovest appunto del paese. Secondo quello che riporta il governo nigeriano, in particolare le forze armate, erano in corso vari pattugliamenti per atti di brigantaggio e furti di bestiame, rapimenti, uccisioni punitive, insomma una zona anche quella particolarmente sensibile. Quello che preoccupa particolarmente invece gli analisti è non soltanto il susseguirsi di queste azioni violente e anche una potenza di fuoco che probabilmente nemmeno il governo si aspettava da queste bande armate nel nord-ovest, ma il fatto che, secondo tra gli altri per esempio International Crisis Group, che è un think tank particolarmente attivo anche in quella zona con grandissimi analisti, mettono in luce il fatto che queste bande potrebbero allearsi molto facilmente con lo Stato Islamico nell'Africa occidentale. Ricordo che dal 2011 quelle formazioni hanno provocato la morte di almeno 8.000 persone e ho costretto 200.000 persone ad abbandonare le proprie case. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, tutti incentrati su quelli che per il momento sembrano essere l'obiettivo, il grande nemico anche di voi ascoltatori, cioè il governo olandese. Ve ne darò conto tra pochissimo, naturalmente, non prima di, probabilmente l'avete già sentito nel corso della giornata, ma avervi dato conto anche di questa bizzarra, così lo definisce la stampa americana, strana, forse la più strana intervista rilasciata da Donald Trump, in particolare alla Fox News. Sapete che Fox News da sempre storicamente è un fedele alleato dal punto di vista mediatico del presidente Donald Trump. Poche ore fa però, è stata trasmessa domenica sera questa intervista, poche ore fa Donald Trump si è confrontato con Chris Wallace. Il giornalista Lankomer è stato particolarmente incalzante nei confronti di Donald Trump e Donald Trump è apparso parecchio in difficoltà su alcuni temi. Per esempio, sul coronavirus ha detto che il virus scomparirà da solo, ha detto di non essere contrario alle mascherine ma di voler concedere un certo livello di libertà perché causano anche problemi. Poi ha aggiunto che penso di aver avuto ragione più di chiunque altro, e poi non ha mancato di accusare Anthony Fauci, che sapete è il principale consulente della Casa Bianca, virologo di fama internazionale. Ha detto che Fauci è un allarmista e poco prima però aveva detto che Fauci aveva sottovalutato il virus. Poi la parte, se volete, più importante, più sensibile, che non mancherà di suscitare ancora dibattito, sui sondaggi che danno Joe Biden ampiamente in avanti davanti a Trump. Trump ha detto sono tutte fake news e soprattutto si è rifiutato di dire chiaramente se accetterà il risultato delle elezioni in caso di sconfitta. E poi in Egitto, come sempre il lunedì, i nostri dossier internazionali sono tanti e sono corposi. Oggi dovrebbe votare il Parlamento egiziano per autorizzare il presidente al-Sisi a schierare l'esercito in Libia se le forze di Serraj sostenute dalla Turchia andranno a valicare quella famosa linea rossa che lo stesso al-Sisi ha dettato, cioè le Sirte, la città del Golfo omonimo che ha dato i natali a Muammar Gheddafi, che consentirebbe a Tripoli di riprendere il controllo di molte postazioni petrolifere e della Cirenaica intera. Sostanzialmente al-Sisi ha accolto l'invito del Parlamento di Tobruk. Certo, l'intervento da parte dell'Egitto in Libia allarma tutti gli analisti. Cioè, permettiamo di aggiungere anche che dal nostro punto di vista è allarmante anche per gli esiti che potrebbero esservi sul terreno e lo scotto che i civili e la popolazione libica, già provata da tanti anni di guerra civile, dovrebbero ancora una volta provare. 349-238-6666 per i vostri sms, i vostri whatsapp. Adesso con Roberta Frisani andiamo in Israele. E andiamo in Israele per darvi conto di che cosa? Del fatto che sia sabato che venerdì vi sono state ancora ampie manifestazioni sia a Gerusalemme che a Tel Aviv, spesso a ridosso della residenza ufficiale di Benjamin Netanyahu. Si invocano le dimissioni Giuseppe a causa delle sue incriminazioni per corruzione, frode e abuso di potere. Più corpose quelle a Tel Aviv, dove hanno partecipato anche parecchi artisti. Sono state manifestazioni un pochino più popolari, se vogliamo, forse meno intrise di spirito politico, però il movimento delle bandiere nere, che vi stiamo raccontando in esclusiva qui nel suo luogo lontano ormai da alcune settimane, sta assumendo forse dei connotati diversi. Non tutte le bandiere che sventolano sono quelle nere di questo movimento spontaneo, soprattutto anti-Netanyahu, ma che sta promettendo di raccogliere in qualche modo attorno a sé anche anime diverse. L'aggiornamento sui guai giudiziari di Bibi Netanyahu. Ieri udienza tecnica, sostanzialmente le udienze vere e proprie in cui si ascolteranno i testimoni, si ascolterà la difesa del premier israeliano, inizieranno a gennaio del 2021, quindi ancora alcuni mesi di passione per Bibi Netanyahu. Secondo i manifestanti, il premier si è troppo occupato delle sue vicende personali, ha trascurato l'economia, ha trascurato la gestione da coronavirus, ma è stato bravo a comunicare invece al mondo quanto il suo governo fosse stato efficace. Vi faccio sentire la voce di Yarden Schwarzman, raggiunto da Andrea Macchioni, uno dei leader del movimento delle bandiere nere. Con lui facciamo il punto. On Saturday we saw a concentration of demonstrations. We had three main activities. Sabato si è assistito a un'organizzazione congiunta di diverse manifestazioni divise in tre principali eventi. Manifestanti con bandiere nere e bandiere di Israele si sono radunati su oltre 200 ponti e svincoli, a volte occupando interi cavalcavia con più di 500 persone. C'è stata una grande risposta anche da parte degli automobilisti che hanno mostrato supporto alla protesta suonando vigorosamente i clacson. Stiamo parlando di un totale di 20-30.000 persone. Contemporaneamente, sulla spiaggia di Tel Aviv c'è stata una manifestazione congiunta con diverse realtà, come piccoli imprenditori e commercianti, in una protesta che oserei definire più orientata all'aspetto economico di questa crisi. Istanze economiche che ultimamente si sono unite a quelle forze che protestano in difesa della democrazia, come appunto il movimento delle bandiere nere. A Tel Aviv abbiamo stimato la partecipazione di circa 10.000 persone ed è stata la prima volta che artisti e band di fama nazionale hanno preso parte alle proteste. Infine, a Gerusalemme si sono viste circa 2.000 persone, principalmente giovani tra i 20 e i 30 anni, che si sono riunite di fronte alla casa del primo ministro per manifestare il proprio dissenso contro questo governo. Da lì la manifestazione si è spostata nel centro di Gerusalemme, dove i giovani hanno cominciato a urlare slogan e grida di protesta. In quel momento la polizia ha cominciato a reprimere i manifestanti con gli idranti e 10-20 persone sono state infine arrestate. I would say 10 or 20, I can't remember, you know, by heart the number of people arrested. La voce di Yarden Schwarzman, uno dei leader del movimento delle bandiere nere. Un ascoltatore, Giuseppe da Fiumicino: le bandiere nere sono sponsorizzate dagli ultraortodossi. In intervisti qualcuno, se ci riesce, per carità. Io ho avuto informazioni dai miei amici fraterni da Haifa, c'è di mezzo la Cisgiordania, da Netter e Gantz, è reticente così un ascoltatore, ma non mi sembra che l'anima ultraortodossa, perdonatemi, sia particolarmente vitale in questo momento. Anzi, se uno va a vedere le manifestazioni a Tel Aviv, c'è un'anima laica molto molto forte. Peraltro il tema annessione sembra un po' evaporato da quella che è la mini agenda politica di queste bandiere nere. 349-238-6666 per voi. C'è qualcuno che le paragona alle sardine in Italia, il nulla, così Alberto da Verona. Beh, starei attento e soprattutto non così veloce a dare come dire, una connotazione al di là delle sardine. Sapete, non per snobismo, ma seguiamo la politica internazionale più che quella italiana, se non da semplici cittadini. Le bandiere nere sono appena nate, hanno un limite, diciamocelo chiaramente, sono anti-Netanyahu. Però sentite ancora Yarden Schwarzman, perché si diceva, si sono viste altre bandiere, altre anime in mezzo, insieme a quelle nere. Non è che il movimento si sta annacquando, sentite cosa risponde lui. No, I don't think so. Practically, we are also helping other movement and other protesters. No, non la vedo in questo modo. Il movimento delle bandiere nere sta in realtà aiutando altri movimenti e altri manifestanti. Noi non abbiamo intenzioni di carattere politico. Non siamo affiliati a nessun partito. E al contrario, credo che sia grandioso vedere finalmente diverse iniziative di protesta nascere tra altri gruppi. Ci stiamo impegnando per creare una fitta rete e siamo entusiasti che anche i giovani si stiano mobilitando. È fantastico e supportiamo queste nuove realtà perché non c'è nessuna intenzione da parte nostra di guadagnare un peso politico. Come Bandiere Nere siamo ancora molto attivi e stiamo organizzando altre 200 manifestazioni in diverse località in tutto il paese. Nelle ultime 2-3 settimane ci siamo concentrati molto sulle attività di networking, pur essendo sempre presenti nelle grandi manifestazioni. Abbiamo infatti fornito metà del finanziamento necessario per l'organizzazione della manifestazione di Tel Aviv e metà delle persone presenti fanno parte del movimento. Financing and half of the, you know, people of the big demonstration in Tel Aviv. Queste le parole di Yarden Schwarzman, uno dei leader del Movimento delle Bandiere Nere. L'ho raggiunto pochi minuti fa. Andrea Macchioni, la vostra voce invece che arriva al 349-238-6666. Claudio da Verona, ci mancherebbe fossero tutti pro Netanyahu in Israele, una democrazia in Medio Oriente, l'unica tra l'altro, poi quanto sia maggioranza l'opposizione che manifesta per le strade è tutto da dimostrare, e questa mi sembra un'osservazione semplice ma non banale. Come sono tutte le manifestazioni anti qualcuno, così personalistiche, evidentemente manca forse ancora un respiro. Qualcuno fa un passo in più, dice: se non ci sono sentenze definitive si chiama giustizialismo, una piaga che il nostro paese conosce bene. Tanti rimandi che alcuni ascoltatori stanno facendo tra Israele e la situazione italiana. Vedremo come evolverà questo movimento di protesta. Per capire invece l'evoluzione delle vicende giudiziarie di Bibi Netanyahu bisogna attendere gennaio del 2021. Intanto ve lo ricordo, sullo sfondo sembra evaporata ma c'è sempre quel progetto di annessione del 30% della Valle del Giordano che tanto sta facendo irritare, sto usando un eufemismo evidentemente, la controparte palestinese. Questa è la nostra prima pagina, tutta dedicata alle bandiere nere, alle proteste in Israele, grazie alla grammatica di Roberta Frisani che sta completando la sua conversione al metal. Ormai ce l'abbiamo fatta, dopo quasi 10 mesi con gli Orphaned Land, non a caso vi li proponiamo, ascoltatrici e ascoltatori, perché hanno una visione pacifista ed ecumenica, vorrebbe il dialogo tra le due comunità, quello che alcune anime, sia palestinesi che israeliane, invece rigettano al mittente. E adesso andiamo invece in Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è una piccola regione montuosa del Caucaso meridionale. Un fazzoletto di terra conteso tra Azerbaigian e Armenia già a partire dal 1918, con la caduta dell'Impero Russo. Con la nascita dell'Unione Sovietica, il Nagorno-Karabakh, dove vive un'importante minoranza armena di fede cristiana, viene inserito all'interno dei confini dell'Azerbaigian, paese a maggioranza musulmana. Le tensioni tra i due paesi vengono temporaneamente congelate, ma già nella seconda metà degli anni Ottanta la situazione comincia a deteriorarsi. Si verificano con sempre maggiore frequenza scontri interetnici, espulsioni forzate e violenze ai danni della popolazione civile di entrambe le parti. Lo sfaldamento dell'Unione Sovietica fa esplodere il conflitto. Il 30 agosto 1991 l'Azerbaigian decide di lasciare l'URSS. 3 giorni dopo il Soviet del Nagorno-Karabakh vota per la secessione dell'Azerbaigian, in base a una legge che gli consente di scegliere se seguire o meno la Repubblica Secessionista nel suo distacco dall'Unione Sovietica. Anche se il Consiglio Supremo Azero vota l'abolizione dello Statuto Autonomo del Nagorno-Karabakh, nella neonata Repubblica, il 10 novembre 91, si tiene un referendum per la convalida dell'indipendenza, che si conclude con il 98% dei consensi. Il 31 gennaio 1992 inizia ufficialmente la guerra del Nagorno-Karabakh, che in poco più di 2 anni ha provocato 30.000 vittime e centinaia di migliaia di profughi. Nonostante il cessate il fuoco firmato nel 1994, la tensione nella regione è rimasta elevata. A partire dal 2012, in particolare, si inaspriscono i rapporti tra le parti in conflitto e aumentano gli incidenti lungo il confine. Nell'aprile del 2016, la cosiddetta Guerra dei 4 giorni lanciata da Baku provoca scontri violentissimi e un centinaio di morti. Questa Questa è la storia più recente, quella recentissima, l'attualità, la cronaca invece ci consegna notizie di nuovi scontri con morti e feriti. Per capirne di più andiamo proprio in quella regione contesa, lo facciamo con la voce e la conoscenza di Emanuele Giulianelli, scrittore e giornalista freelance. Ha scritto un libro che forse disorienterà a primo ascolto, Karabakh, la squadra senza città alla conquista dell'Europa, edito da Ultra del 2018 e parla di calcio. Buongiorno Emanuele, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi. Allora, facciamo un preambolo, cosa c'entra il calcio con la regione contesa del Nagorno-Karabakh? Il calcio c'entra molto perché il Karabakh è una squadra che proviene dalla città di Agdam. La città di Agdam è il simbolo di quello che voi avete ben descritto nella vostra scheda, il simbolo del conflitto del Nagorno-Karabakh, che è una città che durante il conflitto, città a maggioranza azerbaigiana, di popolazione, è stata rasa al suolo. La città oggi non esiste più, definita Ghost City, città fantasma. La squadra di calcio ha vinto il campionato proprio nell'anno in cui la sua città veniva rasa al suolo, tant'è che le ultime due partite non sono state giocate ad Agdam, ma in un'altra città. E da quel giorno questa squadra è in esilio. Quindi per me questa squadra di calcio è stato altro che un pretesto per raccontare quella guerra, quel conflitto in cui, come in tanti conflitti moderni, non è facile riconoscere alla fine una ragione o un torto. Si sa soltanto che in questo momento la situazione si sta di nuovo inasprendo nella regione, anche se comunque gli scontri in questo momento, quelli che sono avvenuti soprattutto tra il 12 e il 17 di luglio, non stanno avvenendo proprio nel Nagorno-Karabakh, ma a 300 km più a nord, in una regione che potremmo definire chiave anche per l'Europa, perché la regione si chiama Tavush, la parte armenia, e Tavuz, la parte azerbaigiana, che è l'area nord. In quell'area passano quattro tra oleodotti e gasdotti, tra i quali il famoso TAP cui gas arriverà anche in Italia a ottobre. Quindi ecco, si capisce un pochino l'importanza di quest'area. Nelle parole di Emanuele Giulianelli, lo ricordo, scrittore, giornalista freelance, ha visitato quella zona, ha deciso di raccontare questa emblematica storia legata a una squadra di calcio. Tra poco, Emanuele, ti propongo, stai con noi, andiamo a sentire come sta andando la borsa in questa giornata così cruciale per il destino dell'Europa. Racconteremo meglio chi appoggia chi, quali sono i grandi attori internazionali che cercano di mettere peso in questo conflitto, da una parte gli armeni e dall'altra parte l'Azerbaigian. Stai con noi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ancora una volta, ascoltatrici e ascoltatori. Mettiamo subito in chiaro le cose: il fatto che Roberta Fisani ci proponga il sound di origine armena non significa una qualsiasi presa di posizione di carattere politico. System of a Down, per continuare a parlare del conflitto tra Armenia e Azerbaigian, con la voce di Emanuele Giulianelli, giornalista e scrittore freelance. Karabakh, la squadra senza città alle conquiste dell'Europa, edito da Ultra 2018, la lente del calcio per andare a fotografare, è il caso di dirlo, un conflitto geopolitico. 349-238-6666, alcuni ascoltatori chiedono: è un caso che quella zona rientri dentro i confini dei giacimenti del Mar Caspio? Non lo è affatto, lo spiegava Giulianelli prima. Per lui l'ultima domanda, Emanuele: chi sostiene chi? Ho l'impressione che vi sia qualche peso massimo dietro ai militari che si fronteggiano in quella prima linea, in quel conflitto a bassa intensità per ora. I pesi massimi fondamentalmente sono due, che sono la Turchia e la Russia. In questo momento l'Armenia ormai da qualche anno ha scelto di aderire all'alleanza militare intergovernativa CSTO, o in russo la chiamano ODKV, che è sostanzialmente un equivalente della NATO rivolto ai paesi ex sovietici, a cui appartengono, oltre all'Armenia, la Russia, la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan e il Tagikistan, che vuole essere un pochino un ombrello protettivo per questi paesi, sì. Di fatto è una grossa sfera di influenza russa a livello militare, non solo. L'Armenia da questa alleanza spera di ottenere anche armamenti importanti, perché l'esercito armeno comunque è uscito molto provato dal conflitto, sì, del 94, sì. Quindi loro hanno, infatti, ti dico una piccola impressione, a parte tutto, sì, questo conflitto non è destinato a durare molto, è una scaramuccia, perché nessuna delle due parti ha l'interesse, e anche gli armamenti per poter fare una guerra a più ampio spettro, sì. Invece dietro l'Azerbaigian c'è sicuramente, ma questo non è nascosto, sì, c'è la Turchia, perché Erdogan ad esempio appena saputo di questi attacchi, la sua reazione è stata dire in un comunicato ufficiale che la Turchia non lascerà mai da solo, l'ha definito il suo fratello Azerbaigian, ecco, sì. La bandiera dell'Azerbaigian, come sapete, ha una luna crescente, poi ha una stella con 8 punte che rappresentano, sì, gli 8 popoli turchi, sì. Turchi e azerbaigiani si definiscono un popolo due stati, quindi c'è questo legame, oserei dire, a doppio filo. Sì. Adesso la partita, come appunto diceva anche il tuo ascoltatore, la partita è più energetica, di interessi geopolitici, molto più che come era invece nel Nagorno-Karabakh, una partita sull'identità, sì, e sulla appartenenza dei vari territori. Identitaria resto, anche, certo, in qualche modo, certo. Le risorse energetiche stanno anche offuscando, vedremo se prevarrà non soltanto il soldo, ma anche il buonsenso e la diplomazia in questo caso. Grazie mille, Emanuele Giulianelli, penna freelance, scrittore, giornalista. Karabakh, la squadra senza città, la conquista dell'Europa, edito da Ultra, era il 2018, ancora direi attualissimo. Emanuele, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, ciao, grazie. Le polemiche di questi giorni, qualche braccio di ferro che c'è stato, ha rischiato veramente di appannare delle volte, come quando si discute sui bilanci, eccetera, e si discute dei partiti contabili, quelli che sono gli obiettivi comuni. E l'ho detto anche ieri, noi non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi. Questo piano serve a rilanciare l'Europa, a renderla più competitiva, più resiliente. Queste le parole del Premier Giuseppe Conte, pronunciate pochissimi minuti fa. Sapete, sta per ricominciare il Consiglio dei leader europei. Sono le ore più calde e frenetiche dell'Europa, in cui tutto si decide. Gli analisti più smaliziati dicono: o si fa l'Europa o si muore. Qualcun altro dice: domani l'Europa non sarà più la stessa, ma è un bene o un male. Buongiorno e ben ritrovato, Nessuno che lontano, a Paolo Magri, direttore di ISPI. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, sei d'accordo con questa tesi piuttosto tranchant? Se oggi non saranno tutti d'accordo e ci sarà una vera stretta di mano o una toccatina di gomito, però insomma molto molto benevola, questa Unione Europea è destinata a una lunga, lentissima morte, eutanasia o funerale, insomma, mettila tu come vuoi. Beh, sai quante volte l'abbiamo detto, tante volte l'abbiamo detto anche ai microfoni della sua trasmissione, di fronte ai migranti, di fronte alla Grecia, e siamo ancora qui a contare giorni per il rilancio, per la morte. Allora, io ho fatto questa premessa, direi che guardare questo negoziato è fondamentale, ma guardare solo questo negoziato in questi giorni sarebbe sbagliato. Negli ultimi tre mesi l'Europa ha dato dei segnali di vita inimmaginabili, veloci, tempestivi, che hanno prodotto su una serie di temi, dall'intervento della Banca Centrale, sì, ai fondi per l'occupazione, ai fondi per la sanità, cose inimmaginabili per dimensione e tempi anche solo sei mesi fa. Certo, e qui vengo alla tua domanda, questo negoziato è un tassello importantissimo, perché al di là degli importi del freno d'emergenza, tagli, qualunque cifra esca da questo negoziato, sappiamo che è una cifra che verrà, i fondi che verrà pagata anche con il fondo europeo. Sì, sì. E questo è di nuovo una rivoluzione. Se l'avessero raccontata, ce l'avessero raccontata sei mesi fa, dopo anni che si discute, non ci credevamo. Sì. Ecco, detto ciò, quindi in ogni caso buono, detto ciò, noi siamo italiani, dobbiamo fare i conti con quello che succede nel nostro paese. Forse con un po' di ottimismo eccessivo, c'eravamo illusi che arrivassero 700 miliardi a dono, che era la cifra di cui si parlava. Quanto sta emergendo non lo sappiamo ancora, se ci fosse d'accordo, speriamo, dovrebbe essere circa la metà a dono e la metà a prestito. Allora, direttore, ti devo interrompere perché l'audio non ci sta supportando. Ti prego di recuperare la posizione iniziale. Non so se ti sei spostato, se hai fatto una piccola variazione, così come quella che stanno facendo i leader europei in questo momento. Intanto ti propongo, mentre recuperi la posizione, di andare a sentire La Viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. E rieccoci ancora una volta, buona giornata e ben ritrovati. Se solo adesso vi siete sintonizzati, ascoltatrici e ascoltatori, una seconda lunga pagina dedicata al vertice europeo di quest'oggi, le ore forse più calde e frenetiche dell'Unione Europea. Si decide sul Recovery Fund, avete sentito dalla borsa poc'anzi e da Deborah Rosciani come stanno reagendo i mercati in questa giornata così cruciale. Paolo Magri, direttore di ISPI, ironizzava sul fatto che tante volte abbiamo celebrato il funerale anzitempo dell'Unione Europea. Forse, essendo noi giornalisti, abbiamo pronto lì dentro un cassetto della scrivania il coccodrillo, sapete, quando vi sono lutti particolarmente importanti, ecco che i giornalisti più cinici sono già pronti perché hanno scritto l'epitaffio. Forse però non è il momento. Paolo Magri ricordava i tanti passi fatti da questa Europa, le mosse anche della BCE, mosse assolutamente non prevedibili fino a sei mesi fa. Detto ciò, però, Paolo Magri, dicevi, direttore ben ritrovato ancora una volta, l'Italia punta ad avere il suo, evidentemente. Sì. Devo dire che dovremmo scoprire anche il mistero per cui solamente il collegamento telefonico fra noi e voi non funziona, e mi scuso con chi ci sta ascoltando per la linea sempre pessima. Ma adesso è perfetto. Noi italiani, poi alla fine, at the end of the day, come si dice, alla sì. fine della giornata, dobbiamo fare il conto su quanti soldi questo negoziato produce. Sì. Saremo in ogni caso il paese che maggiormente beneficerà di questo fondo se venisse approvato, anche nelle misure che stiamo discutendo ora. È chiaro che per noi italiani in particolare il fatto che una parte cospicua sia a prestito, che si aggiunge ai prestiti che già l'Italia ha, non è una buona notizia. Ma come dicevo nella prima parte, non so se si sentiva, forse ci siamo un po' prematuramente illusi su quella cifra all'inizio di un negoziato, i 700 miliardi. Non è mai stato negoziato nella storia dove si entra con un certo obiettivo, un certo numero, e si esce esattamente dopo 28, 27 paesi che discutono esattamente con quella stessa cifra. Sì. E fa parte della cosiddetta teoria dei giochi, che formalizza due attori che si incontrano, ognuno mette a un benchmark, a un obiettivo, a un'asticella, l'asticella prima o poi evidentemente si deve muovere. C'è un timore però che viene portato da qualcuno, Paolo Magri, se passasse la linea dei cosiddetti paesi frugali, cioè paesi che hanno un peso limitato anche dal punto di vista geopolitico in Europa, se passasse la loro linea acquisirebbero un peso che non è meritato, quindi anche in altri ambiti, non solo quello strettamente economico, e quindi se l'Unione Europea rimarrà come tale vi sarà una conduzione, come dire, dei timonieri che non ci aspettiamo, quindi Olanda, Austria, eccetera, perché hanno vinto loro. È possibile questo scenario? Ma io credo che sia difficile dire che hanno vinto questi paesi, perché nella logica del bicchiere mezzo vuoto, tu citavi la teoria dei giochi, ma siamo in un modo più semplice al bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Questi paesi sono entrati con l'idea di non dare un euro a dono ed escono con, non lo sappiamo, 380, 390, 400, non lo sappiamo, a dono. E quindi non è una vittoria unilaterale. E poi che vittoria? Vittoria il fatto che cinque paesi che pesano per il 15% del PIL, il 10% della popolazione, hanno imposto certi un ritmo negoziato, ma si sono anche isolati. Dall'altra parte ne hanno 22 di paesi che volevano qualcosa di diverso, e fra questi 22 c'è fatto nuovo la Germania e la Francia, ma soprattutto la Germania. Certo, se anche non si può dire che qualcuno stravince, qualcuno straperde, c'è un precedente che questi paesi hanno dettato il gioco in questi giorni. E il vero punto che rimane, il vero punto che rimane è che pur se si raggiungesse, lo auguriamo, un accordo anche in tempo breve, le divisioni e gli scontri sono stati durissimi. Ecco, quegli stessi divisioni e scontri si riproporranno su altri temi. Questa Europa tra 2-3 mesi avrà il summit Europa-Cina, dove non siamo proprio tutti allineati sul tema Huawei o su altri temi. Questa Europa dovrà riaffrontare il tema migrazioni e lì quell'est, ovest, nord, sud lo rivedremo in scena. Quindi il vero punto non è che questi paesi hanno stravinto i cosiddetti frugali e hanno un potere di veto, poi vedremo quali sono le normative sul freno d'emergenza, è che non è questo. Il clima non è di una passeggiata, cioè c'erano già delle crepe, li stiamo rivedendo e devo dire, questa volta sentiamo un commento positivo, non le stiamo rivedendo sulla ripartizione di 500 migranti, con tutto l'affetto e la considerazione che abbiamo per esseri umani, lo stiamo vedendo sulla suddivisione e sull'esborso di 700 miliardi di euro. Immaginare che fosse una passeggiata negoziale era davvero illusorio. Grazie mille Paolo Magri, come al solito quando metti il grand'angolo hai una visione molto lucida, per usare sempre la metafora, come dire, cara a noi filmmaker, abbiamo messo un'ottica cinematografica, ecco, molto molto ben incisa. Grazie mille Paolo Magri, direttore di ISPI, buona giornata, grazie, e buon lavoro a tutti, buona giornata. E adesso piazziamo la telecamera sul tavalletto, zoomiamo, andiamo in Olanda, ma in realtà andiamo a Roma, restiamo in Italia con il corrispondente del quotidiano The Telegraph, Maarten van Alderen. Buongiorno Maarten, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno a lei. Allora, con Maarten, collega olandese, proviamo a metterci nei panni di quella che è la sensibilità, anche l'opinione pubblica, rispetto a questo vertice così importante. Oltre alla frugalità, mettiamola così, a cosa punta il governo olandese? Sta usando questo vertice europeo e questa serie di veti per acquisire maggior peso politico, geopolitico all'interno di questa Europa? Ma diciamo, non è che ci sia un progetto dietro, tanto meno quello che qualcuno pensa forse in Italia, che Rutte vuole, diciamo, lo sfascello totale dell'Unione Europea. Semplicemente, la cosa è molto più semplice, il premier Rutte sa che una grande maggioranza in Olanda non vuole che lui ceda e lui pensa a questo elettorato, tutto qui. E quindi lui sa che gli occhi sono molto puntati su di lui in questo momento. È venuto fuori da sondaggi recenti che il 69% degli olandesi sarebbe a favore della possibilità del veto sul recovery fund da parte dei singoli stati, sa che il 75% degli olandesi è contro tasse europee e contro più potere a Bruxelles. Quindi lui sa questa cosa e quindi punta i piedi e poi in che misura lui poi riesce ad esercitare sì o no questo potere, poi verrà fuori dalle trattative, ma certo, non è che ci sia un progetto dietro, lui semplicemente sa com'è il clima in Olanda e lui pensa a questo, pensa alle elezioni a marzo dell'anno prossimo. Nelle parole di Maarten van Alderen, corrispondente dall'Italia per il quotidiano The Telegraph, la visione da parte del Premier Rutte, utilizzare fra le altre cose il vertice europeo come formidabile strumento di consenso interno, ma la grande politica internazionale ci sta abituando anche a queste cose, lo sappiamo, ve la raccontiamo tutti i giorni, così come sappiamo che consessi internazionali così importanti hanno una valenza non soltanto all'estero, ma evidentemente verso i rispettivi elettorati, verso i rispettivi verso le rispettive società civili. Il Premier Conte ha detto a Rutte che in gioco c'è il destino dell'intero continente. Non c'è il rischio che l'Olanda, come dire, perseguendo questa strada così egoista, come qualcuno ha definito, perda invece peso all'interno dell'Unione Europea e vada a isolarsi? È un po' la tesi che ci proponeva Paolo Magri. Attenzione, 22 paesi stanno facendo fronte comune. I 5 paesi frugali potrebbero essere tenuti un po' in disparte nelle future mosse dell'Unione Europea, se sopravviverà a come la conosciamo. Maarten van Alderen. Non si sa come andrà a finire. Innanzitutto l'Olanda non è da sola, perché giustamente lei ha parlato di 5 paesi, parliamo anche di Finlandia, Austria, Svezia, sì, Danimarca, che sono paesi piccoli con relativamente pochi abitanti, ma sono paesi, diciamo, vengono nominati frugali, ma sono tutti paesi che hanno un'ottima economia e che sono riusciti a avere un'ottima gestione delle spese pubbliche. E sono sempre comunque 5 paesi, anche se hanno relativamente pochi abitanti, sì, sono anche paesi, l'Olanda ha 17 milioni di abitanti, che ha un export e import molto alto con l'Italia, c'è tantissimo commercio fra l'Italia e l'Olanda, sì. Loro fanno notare il loro peso, poi ognuno segue legittimamente i suoi interessi, come va sempre nelle trattative internazionali tra vari paesi. Poi quali potrebbero essere conseguenze del fatto che questi paesi diciamo, sembrerebbero di ostacolare questa proposta che era stata fatta dalla Francia e la Germania. Questo si vedrà nel futuro. Il punto è che in Olanda c'è una tendenza già da tanto tempo di una certa diffidenza nei confronti di Bruxelles, soprattutto di avere sempre più potere di Bruxelles a scapito dell'autonomia, della gestione dei pubblici soldi, dei soldi pubblici da parte delle varie nazioni. Ed è quella sulla quale evidentemente sta facendo leva anche in sede europea. Proprio in queste ore ricomincia tra pochissimi minuti questo importantissimo vertice. Io intanto ringrazio tantissimo Martin van Alderen, corrispondente dall'Italia del Telegraph. Buona giornata e buon lavoro, Martin. Grazie tanto. Un po' di ascoltatori leggono con interesse la tesi proposta dal collega olandese. Alla fine anche la grande politica internazionale, anche se venata fortemente di economia, come sappiamo, può essere letta come riscontro immediatamente interno. Torneremo a parlare di questi temi, su come il vertice europeo prettamente economico possa ridisegnare gli interi equilibri geopolitici europei e come una parola sola possa ridisegnare la fine di questa puntata. I saluti vanno a tutti voi che siete stati all'ascolto, i ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento a domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.